Mi confondi quando parli a dirotto, finta borghese con le mie queen addosso, e alla fine mi porti solo guai, che giri e rigiri come vuoi. Signorina, dimmi che piani hai, che li stravolgo tipo in mezzo secondo. Andiamo via da sto posto, c'è l'Uber che ci aspetta di sotto. Ma tu cosa credi che io voglia da te? Fai finta di niente oppure non ti interessa. Fai la distaccata, sei tutta tirata, ma io non so perché. Ti giuro che con te girerei tutta Parigi in motorino. E non ti sposerei solo perché non ho l'età. Voglio vivere più forte, c'è rimasta questa notte. E ringrazio il cielo che non abbiamo l'età. L'hanno capito tutti, tranne te. E sarò l'orgoglio, la paura a stringerti una scusa. E corro troppo, troppo poco per essere me. E... ma tu cosa credi che io voglia da te? Fai finta di niente oppure non ti interessa. Fai la distaccata, sei tutta tirata, ma io non so perché. Ti giuro che con te girerei tutta Parigi in motorino. E non ti sposerei solo perché non ho l'età. Voglio vivere più forte, c'è rimasta questa notte. E ringrazio il cielo che non abbiamo l'età. Sogno solo d'inverno, non ti scioglierò sto freddo. Ma lascio che il vento ti sposti i capelli, tu stringiti a me. Che con te girerei tutta Parigi in motorino. E non ti sposerei solo perché non ho l'età. Voglio vivere più forte, c'è rimasta questa notte.